il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Sono pochi, ma ci sono i viticoltori nella vallata tra Feltre e Belluno. Una vallata dove un tempo la vite era in realtà un'attività molto diffusa e importante per l'economia della zona. Chi sono e quali vini producono oggi i nuovi viticoltori? Per raccontarcelo abbiamo con noi Marco De Bacco dell'azienda agricola De Bacco di Seren del Grappa, al quale diamo il benvenuto. Salve, grazie. Ecco, quindi si può fare vino, si fa vino anche nella vallata tra Feltre e Belluno. Sì, si può fare, ma soprattutto si faceva, perché fino agli anni 20 del Novecento gli ettari vitati nel Feltrino erano oltre 1000 sull'area della viticoltura storica, quindi quell'area che parte da Feltre, passa per Fonraso e Larsier e arriva fino a Pastro, quindi al confine con le province di Trento e Vicenza. Ecco, il vostro territorio è un territorio particolare, un territorio montano, quindi immagino che abbiate anche pendii, esposizioni particolari al sole e quindi anche vitigni particolari. Sì, la maggior parte dei vigneti sono tutti vigneti che si arrampicano sulle pendici delle nostre montagne qui a piedi delle Dolomiti, e sono vigneti con pendenze minime che vanno dal 30% fino ad un massimo del 60-70% di pendenza, con varietà principalmente tradizionali, autoctone, quindi quelle varietà che abbiamo recuperato da quando abbiamo iniziato quest'opera di recupero, appunto, che sono Pavana, Gata, Bianchetta e Turca. Quindi varietà che erano coltivate un tempo e che anche nel periodo in cui è calata l'attenzione verso la viticoltura sono comunque rimaste, e siete riusciti a recuperarle, oppure che avete trovato attraverso, non so, enti che tipo Veneto Agricoltura, non so, che promuovono gli antichi vigneti? Noi abbiamo avuto la grande fortuna che avevamo un piccolissimo vigneto di famiglia di appena 2000 metri quadri, dal quale abbiamo potuto, tramite anche l'istituto di Conegliano, abbiamo potuto selezionare quelle che erano le varietà storiche, e da lì siamo partiti per selezione massale a recuperarle, a ricrearle e a ridiffonderle, insomma. Ecco, per avere un'idea, io vedo dei nomi molto particolari dei vostri vini: Sacca, Vanduia, Ienia, Cus, non so se li ho detti giusti. Sì. Che cosa sono questi? Come sono fatti? Ma sono dei vini, ad esempio Sacca e Vanduia, sono, diciamo, gli autoctoni per eccellenza, perché Vanduia è un uvaggio di varietà autoctone tradizionali di Pavana e Gata, un rosso molto importante che dà una discreta gradazione, prodotto con rese molto basse, solo sui pendii della zona del Feltrino, che sono conoidi ghiaiosi, fortemente ghiaiosi, dove la fertilità delle piante è molto molto bassa e dove non si superano mai 30-40 quintali per ettaro. È un rosso importante fatto da queste due varietà con un piccolissimo affinamento in legno. E poi come bianchi invece? Bianchi abbiamo appunto Sacca. Sacca è l'altra eccellenza degli autoctoni, perché Sacca è uno spumante di Bianchetta, anche questa varietà coltivata nel Feltrino fin dal 1500, e con questa varietà si produce appunto uno spumante metodo Charmat, uno Charmat lungo, un 90 giorni di autoclave, un prodotto molto molto particolare che rispetta tanto l'aspetto varietale della varietà, della Bianchetta. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Serte más feliz hoy, mañana, siempre. gioiona. Eccoci di nuovo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di vino, di vigneti nella Valle Belluna, nella Valle tra Feltre e Belluno, e lo stiamo facendo con Marco De Bacco dell'omonima azienda agricola di Seren del Grappa. Si parla ultimamente di cambiamenti climatici e si vede che anche nella viticoltura questo sta portando ad un innalzamento delle quote dove si coltiva e anche il fatto che i vigneti vanno più a nord. Questo forse è anche uno dei motivi che sta in qualche modo favorendo il fatto che torni la viticoltura nelle vallate, diciamo, prealpine. Sì, sicuramente solo un dato che può farci riflettere è che la vendemmia 2015 è stata una vendemmia per noi strepitosa, soprattutto dal punto di vista dei rossi, dove abbiamo ottenuto delle gradazioni zuccherine che poche volte si sono viste. Si sono viste però magari 20-30 anni fa, qualche dato che avevamo vecchio. Quindi per noi questa fase, tutto sommato, è una fase per noi favorevole. Ci sono anche aspetti negativi, da questo ovviamente il riscaldamento per voi? Per il momento sinceramente dovrei dire di no per quanto riguarda la viticoltura. L'unico piccolo aspetto negativo che abbiamo è che in alcuni casi possiamo soffrire di carenze idriche, che non è mai stato un problema, però abbiamo visto in questi ultimi anni, a parte 2014, in alcuni casi su terreni poveri e ghiaiosi qualche stress idrico si è visto. Ecco, che cosa stanno facendo anche i vostri colleghi nella vallata? Siete molto pochi, però ci sono comunque. Sì, diciamo che ci sono due situazioni di evoluzione della viticoltura nel bellunese. C'è una viticoltura che è quella del feltrino, quindi legata a quella che è la viticoltura storica, che sta operando con più che altro con varietà tradizionali, che sta recuperando, e in minima parte, diciamo, sta sperimentando varietà internazionali, mentre c'è il resto della Val Belluna che si sta spingendo molto su quelle che sono le basi spumante, quindi dai Pinot allo stesso Prosecco, per dirle, però è una viticoltura abbastanza diversa, perché cerca lotti molto grandi, cerca superfici grandi per la produzione di basi spumante, mentre il feltrino non fa fatica ad accettare questo modello, perché la morfologia del territorio non lo consente proprio, insomma, perché gli appezzamenti sono molto molto piccoli e in forte pendenza. Ecco, proprio questa pendenza, questa morfologia del territorio forse vi costringe anche ad una particolare attenzione. Vedo che voi avete rese molto, molto basse, ma anche c'è una vendemmia a mano, attenzione per esempio al ridotto uso di fertilizzanti e quindi lotte integrate, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di pratiche molto che puntano molto alla qualità. Sì, sicuramente lei pensi che la nostra superficie aziendale sono appena 10 ettari, 9 ettari e qualcosa, e però questi 9 ettari e mezzo sono su 40 chilometri lineari, per cui gli appezzamenti sono tantissimi e di piccole dimensioni, quindi anche la difesa fitosanitaria viene ottimizzata in modo che i trattamenti siano ridotti al minimo, le stesse concimazioni e tutto, insomma. Il consumatore apprezza questa la vostra proposta o trovate delle difficoltà? Il consumatore, soprattutto negli ultimi anni, sta cominciando ad apprezzare questi prodotti molto ricercati, di nicchia, che si staccano, diciamo, dalla massa degli altri prodotti, per cui stiamo vedendo che nel medio e lungo termine la nostra scelta sta dando i suoi frutti. Ecco, per finire, dove possiamo trovare informazioni dove si possono trovare i vostri prodotti e informazioni appunto sui vostri vini? Sul sito internet, che è www.debacco.it, si trova tutto, dalle schede tecniche alla nostra storia, a una gallery di foto e tutto il resto. E per provarli c'è una possibilità per di vendita online? Direttamente in azienda da noi, oppure c'è lo shop online, però direttamente in azienda, se avete possibilità, senza problemi. A Seren del Grappa. Sì. Grazie. Grazie a voi. Per chi vuole maggiori informazioni sulla cantina De Bacco, esiste anche un sito internet www.debacco.it. Sempre parlando di montagna, diamo adesso un paio di notizie. La Giunta regionale del Veneto ha dato tempo sino al 16 maggio per presentare domanda per concorrere ai bandi per gli agricoltori che gestiscono prati e pascoli in zone collinari e per le indennità a favore delle aziende agricole di montagna. Si tratta di due misure del programma di sviluppo rurale 2014-2020 che mettono a disposizione 22 milioni di euro per gli imprenditori veneti del settore primario. Una notizia invece meno confortante: il massiccio del Monte Rosa è la seconda montagna più alta delle Alpi, un paradiso per gli sciatori ma soprattutto un osservatorio privilegiato per i cambiamenti climatici. Ed è proprio dal Monte Rosa che il gruppo di geologi che sta monitorando lo sciogliersi del ghiacciaio fra Italia e Svizzera ha lanciato un allarme preoccupante. Stiamo constatando, dice il geologo Giovanni Mortara, una notevole perdita di spessore di ghiaccio pari addirittura ad alcuni metri all'anno. Negli ultimi decenni la copertura di ghiaccio della parete est del Monte Rosa ha sperimentato una perdita accelerata e drastica in estensione. Secondo gli scienziati le previsioni a lungo termine non sono confortanti, l'effetto sui ghiacciai dell'aumento delle temperature potrebbe significare la loro sparizione pressoché totale dall'arco alpino. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.